27 luglio 2012, cerimonia d'apertura di Londra. Compleanno di Clemente Russo. Caspita, quindi tocca anche. Che fai? Ti porti la torta con le candeline in pista? Ma non potrò quel periodo perché sarò sotto alimentazione e problemi con la bilancia, quindi dovrò controllare il peso. Qua ho visto che però c'è l'intenzione di portarsi un prosecco nello zaino. Festeggeremo dopo. E ti chiedo ancora, lo faresti il portabandiera? Vabbè, che mi dici? Solo a domandarmi mi hai fatto venire i brividi addosso. Lo farei anche se avessi la gara il giorno dopo. Quindi insomma un candidato maschio c'è, perché se no qua lo fanno per forza le donne, la Vezzali, la Idem, la Pellegrini si discute, insomma pure un ometto ci potrebbe star bene. Mi offro volentieri.